Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Abbandono istituzionale e degrado tra i grattacieli di Borgo San Sergio a Trieste. I residenti denunciano la risposta dell'ATER. Nuovi spazi per la Fondazione Bambini Autismo a Pordenone. Due strutture innovative per dare risposte alle famiglie. Scarni i risultati per il concordato preventivo biennale contro l'evasione fiscale. In regione lo hanno scelto 11.000 attività. La giunta di Pordenone approva il piano triennale dei lavori pubblici, 35 milioni e mezzo di opere solo il prossimo anno. A Trieste sequestrati quasi 200 kg di tabacco da masticare di contrabbando, denunciati tre negozianti stranieri, sospese le attività. Quasi 2 tonnellate di pesce prive di documentazione erano caricate su un furgone a targa romena fermato sul confine sloveno. Carniaco e Re di Puglia, gemellaggio spirituale tra le due chiese dedicate alla Madonna, simbolo delle madri di tutti i figli scomparsi in guerra. La Traviata apre la stagione del Verdi di Trieste, successo personale per Maria Grazia Schiavo, perplessità per una scena gender fluid. Basket, questa sera la Pallacanestro Trieste sfida in trasferta a Trento, capolista in A2 UEB Gesteco Cividale, ospita la pari punti Rieti. 12:31 minuti 35 secondi, buongiorno da Livia Liberatore e Rita Micoli. Il patrimonio immobiliare ATER di Trieste è il più vasto della regione, 13.000 alloggi, 1.200 edifici. Una città nella città che spesso però non vive bene. È il caso del complesso di grattacieli di Borgo San Sergio, dove da anni i residenti denunciano uno stato di abbandono istituzionale. Auto incendiate, abbandonate, immondizie ovunque, insetti infestanti nelle abitazioni. Siamo stati a una sorta di riunione condominiale, abbiamo anche sentito la replica dell'ATER, il servizio. La ginnasta leggera dipinta sulla facciata del palazzo, un murales recente che decisamente stride con le auto incendiate e abbandonate da anni che si trovano subito sotto e poi l'immondizia accantonata, così fuori, dentro è peggio. La muffa alle pareti, l'acqua che cola dal soffitto, pozzanghere a terra di fronte all'ascensore. Denunciano una situazione di degrado inaccettabile i residenti delle case ATER di Borgo San Sergio, i cosiddetti palazzoni dei Puffi, 8 condomini, 350 appartamenti, in un'assemblea promossa dalla Lega degli Invisibili, un'associazione che si impegna a raccogliere le istanze per poi procedere ad eventuali azioni legali contro le istituzioni. Sentiamo una testimonianza di una dei residenti. Rosa Mistero, lei da quanto tempo vive qui? 20 anni. La situazione è precipitata. Sì, sono arrivata che era bellissimo, perché ho scelto proprio di venire qui, proprio perché era bello, pulito e belle persone. E invece adesso un disagio mai visto. Addirittura blattene negli appartamenti. Pieno di blatte negli appartamenti. E glielo chiedi agli ATER e dicono sì sì, arriva qualcuno. E lei cosa ha fatto? Io ho fatto da sola e comunque le ho portate in un vasetto, così gliele ho fatte vedere. Non ci credevano? No, perché dicevano che parlavamo così, però tutti i palazzi hanno pieno di blatte. Perché... Lei da vicina di casa assiste una persona che è quasi sconosciuta ai servizi sociali, dice? Sì, perché ha solo la figlia che viene 2 volte alla settimana e io sono proprio la vicina, ho anche le chiavi di casa di questo signore che è invalido e non si muove. Abbandonato. I servizi sociali vengono? Sì, vengono solo per fare delle... gli mettono le fasce sulle gambe e basta, perché un bagno, un qualcosa di utile, una pulizia anche alla casa, deve far tutto la figlia che comunque lavora e ha un marito malato. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. 35 milioni e mezzo di euro in opere pubbliche nel 2025. Nell'ultima seduta di giunta del comune di Pordenone è stato adottato il programma triennale. L'elenco riporta le opere previste per il prossimo anno e per le quali è già stata avviata la progettazione o i lavori. Non tutte sono finanziate dal PNRR. Il comune, hanno spiegato l'assessore alle opere pubbliche Giuseppe Verdichizzi e all'urbanistica Lidia Diomede, è stato in grado di assicurarsi fondi regionali bandi ministeriali per le opere indifferibili, concessi se le opere rispettano il cronoprogramma previsto, e fondi GSE dedicati ad opere che apportano una riqualificazione energetica. Tra i cantieri più importanti dal punto di vista economico ci sono interventi di riqualificazione della viabilità intorno all'ospedale per 3 milioni e mezzo, la ricostruzione della scuola primaria Grigoletti per quasi 4 milioni 400 mila euro e ancora la riqualificazione della piazza di Borgo Meduna con realizzazione di una ciclabile su via Udine per 4 milioni 200 mila euro, il parco museo antiche mura, la rigenerazione ambientale dell'area verde Polo Young e ancora lavori di sistemazione dell'incrocio della statale 13 Ponte Bana con via Interna e via San Daniele, la messa in sicurezza di rogge, tombinate e laghetti, la riqualificazione di Piazza del Popolo per 2 milioni e mezzo di euro. E a Pordenone la Fondazione Bambini e Autismo ha inaugurato questa mattina un fabbricato che vedrà realizzarsi due progetti di grande valore sperimentale. Al piano terra un ambulatorio per effettuare visite ed esami in un ambiente protetto e 4 posti letto per la degenza breve. Al piano superiore una casa modello per il dopo di noi. Nuovi spazi per la Fondazione Bambini e Autismo che in via Roggiuzzole a Pordenone può contare ora su strutture innovative realizzate con risorse pubbliche e private per dare risposte ad alcune esigenze specifiche delle persone con autismo, come quella di affrontare percorsi diagnostici e terapeutici in un ambiente protetto diverso da quello dell'ospedale. Davide Del Duca, direttore generale Fondazione Bambini Autismo Onlus. Oggi inauguriamo una struttura che la Fondazione ha pensato alcuni anni fa. Si tratta di un'unità di urgenza e prevenzione per l'autismo, cioè una piccola struttura sanitaria che accoglierà le persone in stato di acuzie, eccetera, e sopra una casa modello per il dopo di noi. Negli spazi al piano terra potranno inoltre essere sviluppati progetti di ricerca collegati all'autismo e si potrà fornire un modello di accoglienza alternativa al ricovero contenitivo per pazienti in stato di agitazione. Infine un monolocale ospiterà le famiglie dei pazienti provenienti da altre parti d'Italia. La casa modello per il dopo di noi è studiata per essere un luogo adatto a persone che soffrono di alterazioni sensoriali, con spazi comunitari e spazi individuali, ma con tutte le caratteristiche di una casa di civile abitazione che può ospitare 5 persone. Si tratta, spiega la presidente della Fondazione Cinzia Raffin, di una delle poche esperienze fatte in base alla legge 112. In Italia esiste una legge sul dopo di noi che il legislatore ha pensato che questo è il numero delle persone che devono abitare questa casa e purtroppo non esiste. Per cui questa è una grossa sperimentazione non a livello regionale ma a livello nazionale. Negli anni abbiamo sempre cercato di fare cose assolutamente nuove, assolutamente sperimentali e poi proporle in giro per l'Italia ma non solo. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato un insuccesso il concordato preventivo biennale introdotto dal governo come misura per contrastare l'evasione fiscale, lo afferma la CGA di Mestre, che ha raccolto i dati sullo strumento che permette alle partite IVA di minori dimensioni di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netto da assoggettare a imposizione nel biennio successivo. L'adesione è facoltativa. In Friuli Venezia Giulia hanno optato per il concordato 11.000 attività, il 13% delle 85.200 partite IVA e imprese potenzialmente interessate, garantendo all'erario un gettito di circa 30 milioni di euro. Numeri più bassi del previsto, come d'altronde è successo a livello nazionale. In Italia hanno aderito allo strumento poco più di 500.000 partite IVA che dovrebbero assicurare all'erario 1 miliardo 300 milioni di euro inferiori ai 2 miliardi preventivati. È stato un primo sequestro in un negozio di Trieste di melassa di tabacco e aromi vari senza contrassegno dei monopoli e senza avvertenze in lingua italiana, operato da Fiamme Gialle e Polizia Locale, a dare inizio a una vasta indagine anticontrabbando. A emergere al termine dell'indagine è stata l'esistenza nel capoluogo giuliano di un vero e proprio fenomeno di contrabbando, finalizzato alla minuta vendita di tabacco da masticare, in gergo comune conosciuto come snus. e Gutkha, diffuso in India e Pakistan per alleviare le fatiche dei lavoratori, particolarmente nocivo per la salute. I controlli sono stati poi estesi ad altri 3 esercizi commerciali gestiti da cittadini pakistani. Nascosti tra i generi alimentari in vendita sono stati trovati oltre 90 kg di tabacco da masticare e di tabacco da narghilè. Le attività di polizia giudiziaria coordinate dalla procura sono proseguite quindi con la perquisizione delle abitazioni dei titolari dei negozi, che hanno portato al sequestro di ulteriori 80 kg di tabacco da masticare di provenienza estera, privi di contrassegne, pronti a essere illecitamente messi in vendita. Denunciati per contrabbando i 3 commercianti, segnalati all'Agenzia dei Monopoli per il recupero dei tributi evasi, i 3 negozi sono stati temporaneamente chiusi. Una turista austriaca di 40 anni ieri sera è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Kattinara a seguito di una caduta accidentale dal balcone dell'appartamento di grado in cui alloggiava. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, la donna era insieme ad altri 2 turisti quando, dopo una serata fuori, è tornata in camera ed è caduta dal terrazzo al primo piano, forse anche a causa dell'eccesso di alcol. Quasi 2 tonnellate di pesce, tra cui carpe, lucioperche, pesci siluro, storioni e trote, sono state sequestrate dal personale della Capitaneria di Porto di Trieste. La merce era su un furgone a targa rumena bloccato sul confine italo-sloveno. A bordo prodotti ittici per 1948 kg, tutti privi dei documenti necessari a garantirne la tracciabilità. L'operazione è stata svolta in collaborazione con il personale del comando della Guardia di Finanza di Muggia. A carico del conducente del mezzo è stata elevata una sanzione da 1.500 euro. Tutta la merce è stata sequestrata anche per consentire le verifiche sulla idoneità al consumo umano. In caso contrario, il pesce sequestrato sarà smaltito. Vediamo il tempo: cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 11. Trieste 15 gradi, Udine 14 gradi e mezzo, Gorizia 14, Pordenone 12 e mezzo, a Tolmezzo 11 gradi, a Forni di Sopra 10 e mezzo, Piancavallo 9, Sappada 6 gradi, Tarvisio 1 grado, sul Monte Zoncolan 9 gradi e mezzo, sull'Ussari 4 gradi e mezzo, a Grado e Lignano 13 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA per questo pomeriggio: ancora cielo in prevalenza poco nuvoloso. Ora andiamo a Carniacco, dove sorge il Tempio dei Caduti della campagna di Russia. Questa mattina ha rinnovato il legame spirituale con il Sacrario di Re di Puglia e suggellato il legame tra le 2 parrocchie nel segno della memoria dei caduti nelle guerre. In mostra, durante la messa che suggella il gemellaggio spirituale che si è appena conclusa, le icone sacre dei patroni d'Europa, Santi Cirillo, Metodio e San Benedetto da Norcia, conservate a Re di Puglia. È una arrivata dalla Russia prima dello scoppio del conflitto in Ucraina. Tutto intorno, sulle pareti, nel Sacrario Nazionale di Carniacco, i grandi pannelli che raffigurano i militari sofferenti moribondi in mezzo alla neve, nel ricordo dei 100.000 soldati, morti di freddo, fame, stenti e ferite, durante la campagna di Russia. Celebrata e rinnovata l'unione spirituale tra la Chiesa parrocchiale Madonna del Conforto e la Chiesa Regina Pacis del Sacrario Militare di Re di Puglia, entrambe dedicate alla Madonna simbolo delle madri di tutti i figli scomparsi in guerra. Funzione presieduta dall'arcivescovo Riccardo Lamba e da vari sacerdoti, tra cui anche discendenti di chi ha fatto la campagna di Russia. Gemellaggio promosso dal Comitato Monsignor Carlo Caneva col sostegno dei 2 comuni dell'Arcidiocesi dell'Ordinariato Militare per l'Italia. Carlo Caneva, ricordato anche da un messaggio fatto pervenire da Paola Del Din, fu cappellano militare, reduce dal fronte e dalla prigionia, testimone dell'offensiva russa contro l'armata italiana che aveva invaso il paese. In 100.000 non tornarono. In loro memoria, Caneva eresse il Tempio di Carniacco, inaugurato nel 1955, e qui nella cripta che nel 1990 accolse la prima salma di un milito ignoto, Caneva fu sepolto alla sua morte. Carniacco di Pozzuolo del Friuli, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Adesso la pagina dedicata a cultura e spettacoli. Ieri sera l'inaugurazione della stagione di opera e balletto del Teatro Verdi di Trieste, in scena uno dei titoli più amati del repertorio, La Traviata di Giuseppe Verdi. Equipagata, io. colori freddi e secchi tagli di luce fanno da sfondo alla vicenda di una ragazzina sfruttata che alla fine muore uccisa ancora più che dalla tubercolosi, dai pregiudizi sociali. È La Traviata, disegnata dal regista Arnaud Bernard, nuova produzione del teatro, che ha aperto la stagione operistica di Trieste. Opera popolarissima dove il Verdi maturo dà il meglio di sé. Personaggi descritti a tutto tondo, orchestra e coro perfettamente funzionali al racconto e alcune delle melodie più belle dell'intero repertorio. E soprattutto nei grandi momenti drammatici ha convinto Maria Grazia Schiavo nel ruolo del titolo, e in particolare nella seconda metà dell'opera, laddove la tragedia si consuma. Per lei un successo personale, così come per Antonio Poli, perfettamente a suo agio come Alfredo. Roberto Frontali era Germain, il vecchio genitore che fa scattare il dramma, e il cantante di maggiore esperienza del cast ha disegnato questa antipatica figura come meglio non si poteva. E che pace cala sol, su te splendere ancor può. Dio mi guidò. Enrico Calesso ha diretto i complessi del Verdi in una recita che è salita di tono con il passare dei minuti, trovando una tensione e una coesione che nel grande concertato del secondo atto sono diventate emozione pura. Sul piano visivo qualche perplessità anche esplicita dalla platea, soprattutto per la scelta, ancora nel secondo atto, di mettere in scena in casa di Flora una festa gender fluid con venature sadomaso. Un coup de théâtre da parte di Bernard, che in realtà non ha scomposto più di tanto l'elegante pubblico della prima, che alla fine, per tutti i protagonisti della serata, ha decretato un successo pieno. Trieste, Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. L'orchestra Audimus, diretta dal maestro Francesco Gioia, terrà due concerti con musiche di Bartok e Rimbaud alle 20.45 a Udine, nell'aula magna universitaria di Piazzale Colbe, domani alle 18 alla Tisana, il teatro Odeon in collaborazione con l'associazione Abio. A Prata di Pordenone Andrea Avanzo con Intimacy Tour, musicista e compositore cinematografico pluripremiato, si esibisce alle 21. E al Teatro Comunale di Zoppola alle 21 la finale del New Gen Music Contest, primo concorso dedicato ai giovani talenti musicali del territorio, l'evento inserito nella rassegna Note Sconfinate. Questa sera a Villa di Toppo Florio a Buttrio si esibirà un giovane pianista promettente sulla scena europea, il 26enne francese Virgil Roche, ora residente all'Albelga Queen Elizabeth Music Chapel. Roche, che stiamo ascoltando, presenterà un programma interamente dedicato a Franz Liszt. La sua infinita creatività e la sua impeccabile padronanza strumentale che lo rendono un esempio virtuoso per ogni aspirante musicista, così il giovane pianista ha motivato la sua scelta. La serata inizierà alle 20.45. E al Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa viene inaugurata oggi alle 15 la mostra Non possiamo che andare avanti della fumettista Silvia Rocchi, che ha trasposto a fumetti il romanzo di Pasolini Il sogno di una cosa. Sentiamo Silvia Rocchi. Per questa mostra ho lavorato sulla trasposizione a fumetti del Sogno di una cosa, che è un romanzo molto particolare, se vogliamo, di Pasolini, perché è stato pubblicato molti anni dopo rispetto a quando l'aveva scritto, ed è molto interessante perché all'interno ci ho trovato veramente tutto quello che colpisce dritto all'animo, cioè c'è di tutto, c'è amore, morte, lotta per il lavoro. Secondo me è un'opera, forse nella sua narrativa, poco meno conosciuta rispetto al resto, rispetto ai popolari ragazzi di vita o alla vita violenta. Quindi mi sono buttata su questa trasposizione proprio perché penso che anche attraverso il fumetto possa essere un buon modo per farlo riscoprire anche ai ragazzi più giovani, magari. Come è stato portare su fumetto un autore come Pasolini? Riuscire a visualizzare le immagini che lui descrive non è difficile, perché è ricchissimo di spunti, di tantissime, appunto, immagini evocative, oniriche, dettagliate, descrittive, meno descrittive, più spontanee. C'è un registro ricchissimo, naturalmente. Ovviamente non sono stata la prima, anzi c'è stato un autore friulano molto noto che è Toffolo, che ha già lavorato sulla sua figura, ma anche altri fumettisti. Insomma, Pasolini in qualche modo è talmente contemporaneo ancora che viene letto anche in chiave con dei mezzi, con dei medium che sono ancora attuali, ancora più attuali, come il fumetto, appunto. E a Palazzo Athems Petzenstein di Gorizia, appuntamento dedicato al fumetto degli anni 60 a cura di Mario Cerne, presidente dell'Accademia di Fumetto, Arti Grafiche, Design e Moda di Trieste, alle 17.30. A Cormons continua il Festival dell'Informazione, il mondo fuori, sul tema Con gli occhi dei social, le nuove frontiere della comunicazione. Alle 17 l'insegnante, scrittore e volto TV Andrea Maggi parlerà dei rischi del rapporto dei giovani con il mondo virtuale. Alle 18.30 con Arlef i ragazzi di Yupal Tubo e alle 20.30 Generazione Influencer e nuove professionalità del web. A Pordenone alle 16 l'inaugurazione della Chiesa della Santissima Trinità in via delle Grazie, recentemente restaurata e che al suo interno conserva gli affreschi cinquecenteschi della Malteo e del Calderari. Il nuovo Lunari di Pretoni verrà presentato in chiesa a Basaglia Penta oggi alle 16. Nel pomeriggio a Trieste l'Associazione Culturale Giovanile Serba organizza una passeggiata per conoscere il legame tra la comunità e la città e appuntamento alle 16 alla chiesa di San Spiridione. E ora lo sport, partiamo dal calcio e dall'ultimo schiaffo incassato dalla Triestina, sconfitta ieri a Rocco dalla Gian Erminio per 1-0, partita che doveva essere quella della rinascita e che invece è finita con il gol decisivo degli avversari a 3 minuti dalla fine. Gli alabardati erano poi rimasti in 10 dalla mezz'ora del primo tempo per un inutile fallo di Crollis espulso, episodio che ha portato mister Clotetta ad abbandonare l'area tecnica per andare a strattonare il lettone, indice del nervosismo presente anche sulla panchina. Gli alabardati restano all'ultimo posto della classifica di Serie C a quota 6 nel massimo campionato. L'Udinese sarà invece impegnata domani in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta alle 12.30. Il basket, stasera la Pallacanestro Trieste sfida in trasferta a Trento la capolista alle 20.30 in A2, web Gesteco Cividale, ospita la pari punti Rieti alle 20 e domani a Udine a Brindisi alle 18. Pallanuoto, Serie 1 maschile, gli alabardati affrontano in trasferta l'Onda Forte a Ostia con inizio alle 15. A1 femminile, le orchette impegnate sul campo del Rapallo, si gioca nella piscina comunale alle 18.30. E ricordiamo che allo Stadio Friuli oggi l'Ital Rugby sarà in campo alle 18.40 per giocare contro l'Argentina, la prima delle 3 partite in programma per le Autumn Nations Series. Domani l'appuntamento con le nostre rubriche alle 6.05 sul primo canale radiofonico Rai Est-Ovest, rubrica dedicata ai paesi dell'Europa centro-orientale e ai Balcani, versione televisiva sul terzo canale Rai alle 11.05, un'anticipazione. La Grecia, che ha inasprito le politiche d'accoglienza, teme che la guerra in Medio Oriente possa provocare una nuova ondata di profughi. Il Parlamento europeo discute delle sempre più frequenti sospensioni dei trattati di Schengen tra gli Stati dell'Unione. Dagli zar a Putin, una storia millenaria che condiziona la strategia e le scelte politiche del Cremlino. La caduta del muro di Berlino e le lotte per la democrazia ricordate dal Museo di Solidarnosc di Danzica. You Are the Universe, film ucraino realizzato a Kiev malgrado la guerra, premiato al Trieste Science Plus Fiction Festival. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11 su Rai 3. E su queste frequenze, dopo la prima edizione del GR regionale della domenica, Vita nei Campi. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione non della domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura un bilancio della stagione olivicola in Friuli Venezia Giulia. A seguire la storia di Angelo Floramo, racconta dei giorni di San Martino tra speranze e angosce della gente dei campi. Nella rubrica delle macchine agricoltura, nuovi strumenti per vangature rispettose della fertilità del terreno. E ancora assaggio radiofonico per il Tazzelenghe, vecchio vino friulano, nella rubrica dei sommelier. Anche i cacchi, frutti oltremodo di stagione, hanno le loro prassi di conservazione. Le piante di giardini e balconi hanno ora bisogno di accorgimenti contro il freddo. Un vademecum. In conclusione, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo, il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo altri appuntamenti di oggi. Il centro di Udine diventa palcoscenico dei grandi vini dei colli orientali del Friuli. Il municipio udinese mette infatti a disposizione i locali dello storico Caffè Contarena per 4 degustazioni. Oggi primo appuntamento alle 18.30 con la storia vista coi vini dei colli del Friuli orientale. Lo scrittore Matteo Bellotto ripercorrerà gli ultimi 60 anni di storia d'Italia e della regione attraverso 6 vini. Altri appuntamenti: l'Associazione Diritti del Malato organizza alle 16 un incontro pubblico all'Università di Udine a Palazzo Antonini in via Petrarca, dedicato alle liste d'attesa alla luce del nuovo regolamento emanato dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. E oggi si terrà il primo incontro del ciclo Piccola Università Laica 2024, Storia, Scienza, Arte, lungo percorso per la libertà di espressione, organizzato dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti presso la propria sede a Udine, in via Cividale 192. A Trieste, Sala Unicosane, via Fabio Severo, Esistere e combattere quel che mi nega, appuntamento delle dirette editrice Passaggio al Bosco e delle associazioni Cogito Ergo Sum, Nessuno Resti Indietro. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Giuliano Pecorari e Federico Comar, in redazione ha collaborato Samantha Gonda, Livia Liberatore, Rita Amicoli. Grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.